stato buono. Troppo e tu lo sai. Ora sono stufo e spero che qualcosa mi dirai. Sono a lungo stato nei silenzi tuoi, un onesto ladro, vero, io non sono evaso mai. Scegli me nella tua vita, in un lampo è già finita. Siamo stelle dell'universo. Pensieri tuoi e nessun rimorso credo mi abbia intercettato mai. Voglio fare un giro sulle labbra tue, solo un giro tondo, giuro, fino a quando tu vorrai. We'll be right back.